Buonasera, benvenuti all'ottava puntata di Cinema Massimo, ancora con Massimo Pica negli studi dell'Albero da Speranza in via Arduino a Ivrea. Questa è Radio Abawalla, la web radio disposta a intrattenervi. In questo caso parliamo di cinema. Siamo ancora con Woody Allen, siamo ormai arrivati negli anni 90, stiamo per superare la soglia del 2000. Abbiamo finito la scorsa puntata parlando della Dea dell'Amore, uno dei film, forse uno dei migliori degli anni 90 di Woody. Questa sera iniziamo parlando di un film molto particolare, perché si tratta di Tutti dicono I love you, un film del 96 in cui Woody si lancia in una esperienza un po' particolare, un musical. Lui ha un'idea di musical, inizialmente già da qualche anno gli girava nella testa, inizialmente la voleva ambientare a Parigi, poi il film sarà ambientato a Venezia e guarda caso lui si troverà a Venezia proprio nel periodo in cui ci fu il famosissimo incendio del teatro La Fenice. Era il 29 gennaio del 96, un avvenimento che colpì molto Woody, tant'è che visitò lui stesso il giorno dopo insieme al sindaco di Venezia Massimo Cacciari i resti di questo splendido teatro, e lui cercò anche di aiutare in qualche modo per come poteva Venezia. Come dicevo, stiamo parlando di un film molto molto particolare, perché è il primo e unico tentativo di Woody di fare un musical in cui i attori non pronti, secondo me, a dedicarsi, a cimentarsi in un musical, canteranno e balleranno in questo film, e secondo me non lo faranno bene. Infatti però andiamo avanti, parliamo inizialmente di quello che sta succedendo nel 96 nella sua vita. Lui ha un problema sentimentale con Mia Farrow, finiscono in tribunale addirittura, è una separazione che farà storia. Sapete che lui poi si metterà addirittura con la figlia adottiva che loro avevano adottato, una cosa che ha fatto storia. Però quello che io su cui voglio concentrarmi questa sera è il discorso proprio di questo film con un grande cast, perché se contiamo che c'era, a parte Woody Allen, abbiamo Drew Barrymore, Edward Norton, Goldie Hawn, Tim Roth e niente proprio di meno che Julia Roberts in questo film, che vedrà la presenza di addirittura 24 canzoni in questo film, cantate, ballate dai vari attori. Il film inizia con un classicone di Woody, con Gershwin, un pezzo strumentale che lui adora e che userà spesso. Secondo me la particolarità, il difetto del film è che gli attori non sono a loro agio in questo ruolo di musical. Edward Norton che balla, io non me lo vedo proprio, scusate. E lo stesso Woody Allen che si mette a cantare, c'è una famosa scena dove lui addirittura canta su una vista di un canale di Venezia. Ma e poi quello che mi ha colpito particolarmente, in negativo sempre secondo me, è la poco credibile relazione amorosa che avviene nel film tra un Woody Allen ormai quasi settantenne e una Julia Roberts che era al top della sua bellezza. Insomma, a me facevano anche un po' ridere quando uscivano insieme, però vabbè, cose loro. Io vi dico che quello che mi ha colpito, l'unica cosa forse carina di tutto il film, è la festa finale. Il film si conclude con una grande festa in cui tutti gli invitati fanno un balletto vestiti da Groucho Marx, un omaggio di Woody a uno dei suoi grandi miti della storia del cinema. Ma adesso vi lascio un attimo con un pezzo che si intitola Ready, Set, Stay. A cantare per noi è Grace Kelly. No, ho sbagliato. Thank you. hit snooze. Just 5 more minutes, please. You're such a sleepyhead, and that works for me, that works for me. Maybe we shouldn't sleep till noon, and we have things to do, but they can wait, let's let them wait. Under the covers, wait for me. Wait for me. Daddy said stay. Daddy said don't go away. Daddy said stay forever. Stay, stay, stay. Daddy said stay. Daddy said love me all day. Stay forever. Stay, stay, stay. Under these cotton waves, calling to work and say, you won't go today, ain't no way. Download our favorite TV shows, rubbing nose and nose, till the sun goes down again. Under the covers, wait for me. Wait for me. Ready, set, stay. Ready, set, don't go away. Daddy said stay forever. Stay, stay, stay. Daddy said stay. Daddy said love me all day. Stay forever. Stay, stay. I'll be so warm here in your arms. So take a snapshot before life gets us back in the race. Daddy said stay. Ready, said, don't go away. Ready, said, stay forever. Stay, stay, stay. Ready, said, stay. Ready, said, love me all day. Stay. Bentornati, sempre con Cinema Massimo, sempre con Massimo Pica. Siamo su Radio Abba Walla. Torniamo in diretta, in linea con Woody Allen e con gli anni 90. Abbiamo appena finito di parlare di Tutti dicono I love you, un musical che fortunatamente un'esperienza che fortunatamente Woody non ha più ripetuto, perché secondo me non c'entrava proprio nulla con il suo cinema. Parliamo adesso di un film, il film del 97, Harry a pezzi, un film decisamente migliore, più divertente rispetto a Tutti dicono I love you. È un film che addirittura riceverà il Leone d'Oro a Venezia. La particolarità di questo film è che Woody torna ad essere un po' quello che è il suo personaggio tipico, un personaggio frustrato, psicotico, con una serie di relazioni alle spalle, turbolente, che vive sempre in malo modo, conflitti, litigi, scontri con le sue ex. La caratteristica negativa, secondo me, di questo film, che mi ha un po' stupito, è l'eccessiva volgarità del film. Ci sono molte parolacce, molte situazioni sgradevoli, gratuite, che non hanno nulla, che non danno nulla di più al film. Però va bene, in questo caso Woody secondo me ha voluto tentare anche questa strada. Diciamo che il personaggio principale è interpretato proprio da Woody, che è proprio Harry, questo Harry a pezzi, in cui è uno scrittore, e la particolarità di questa storia è che lui comincia a scrivere dei libri ricordando persone reali, persone che hanno fatto parte veramente della sua vita, e incomincia a incontrare i personaggi dei suoi libri, che li trova in giro, ha dei dialoghi, ha degli incontri. Addirittura questi personaggi poi alla fine faranno una grande festa in suo onore, perché senza di lui loro non sarebbero mai esistiti. Ma il film ha ancora qualcosa da dire, ve lo racconterò a breve con sempre con Massimo. Adesso vi lascio con Stupid Game, It Sees. Thank you. Ok, benvenuti, bentornati con Cinema Massimo. Erano gli It Sees con Stupid Game. Stiamo parlando di Harry a pezzi, un film del 97, sempre Woody Allen ovviamente, un film anche questo con grandi star. Abbiamo visto come nel corso del tempo le grandi star facevano quasi a gara per partecipare ai film di Woody, era quasi un obbligo del curriculum di tutte le star. In questo film c'è Robin Williams che interpreta un personaggio carino, interpreta l'attore fuori fuoco. Cosa vuol dire? Che è un attore che si trova sul set ed è sempre fuori fuoco, non riescono, ma proprio lui, non l'inquadratura, lui rispetto a tutti gli altri è sempre fuori fuoco, è un'immagine un po' psicologica. Ovviamente si tratta, come vi ho detto, sempre di personaggi dei libri, non sono personaggi reali, sono personaggi creati e che Woody si trova a doversi confrontare con loro. A parte Robin Williams abbiamo altre grandi star, c'è Demi Moore, Stanley Tucci, Elizabeth Shue, che ricorderemo tutti ci ricordiamo in Karate Kid, Billy Crystal, grande comico, grande presentatore, poi per svariate edizioni della Notte degli Oscar. Ma diciamo che quello che a me è piaciuto di più come presenza, che magari a molti non dirà nulla, è quella di Mariel Hemingway. Chi conosce Woody Allen sa di chi sto parlando. Mariel Hemingway è la ragazza che interpretava l'amante 17enne di Woody in Manhattan, ragazza che poi andrà via, ma di cui lui si dimostrerà follemente innamorato. È un bel ritorno di questa ragazza cresciuta, un po' meno bella in questa nuova versione, molto più bella da quando era giovane, qui un po' meno, però non è quello che ci importa, è stato comunque una presenza carina. Arriviamo al 1998, il film in questione è Celebrity, film in bianco e nero. Anche qui una carrellata di star: Kenneth Branagh, Melanie Griffith, Charlize Theron, Winona Ryder e, udite udite, Leonardo DiCaprio. Ma è un film che parla della vita delle star, la vita sregolata, i chirurghi plastici, la vita degli eccessi. E DiCaprio, un giovanissimo DiCaprio ma già bravo, interpreta diciamo se stesso, un ragazzino che ha successo, che ha i soldi, che ha la fama e tutti gli eccessi che questo comporta. Il protagonista del film è Kenneth Branagh, che conosciamo tutti, attore e regista shakespeariano, e interpreta la figura di un giornalista che si trova spesso in situazioni da star, party, mezze orge, situazioni estreme, quasi come fosse una persona normale buttata in questa vita di eccessi. Il discorso qual è? Che questa vita eccessiva lo porterà anche a trascurare la moglie. Ma vi lascio un attimo con un altro pezzo, Pour la Glande, Lustan David. Bentornati, ancora Cinema Massimo, ancora Radio Bawalla. Vi ricordo che tutte le canzoni che ascoltate sono in Creative Commons, canzoni libere che potete scaricare, ascoltare e riascoltare quanto vi pare. Tutto per voi su questa radio web. E vi ricordo ancora che tutti i programmi, sia Cinema Massimo che altri programmi che sentite su Radio Bawalla, sono disponibili in podcast sul nostro sito. Se magari avete qualcos'altro da fare quella sera, quando, strano, perché non capisco cosa abbiate da fare di meglio che ascoltarci, però se non potete in quel momento, potete scaricarvela, riascoltarla, farla ascoltare a chi vi pare e magari ascoltare anche gli errori, le imprecisioni che vengono dette, perché alla fine ci sta, non siamo mica perfetti, insomma, più o meno. Comunque, a parte questa storia del Radio Bawalla, vi dico, stiamo continuando con Woody Allen. Siamo arrivati a Celebrity, un film sulle star, sugli eccessi delle star. Secondo me il film è gradevole, nulla di più, non è un film indimenticabile. La scena migliore, di quello, per quello che può essere il mio parere, è la scena in cui Kenneth Branagh, abbiamo detto protagonista, giornalista delle star, che si trova invischiato in serate di sesso, droga e rock and roll, e per questo trascura la moglie, e come spesso accade le donne te la fanno pagare. E la scena più carina è quella della vendetta della donna lasciata, trascurata, che getterà da un traghetto l'unica copia del romanzo scritto con tanta fatica dal protagonista. Una scena, una vendetta crudele per questo signore che ha trascurato la propria compagna. Passiamo dopo Celebrity, siamo al 1999 e passiamo a, secondo me, il film più bello degli anni 90 di Woody, e probabilmente uno dei film più belli in assoluto. Si chiama Accordi e Disaccordi, Sweet and Lowdown. È un film veramente veramente gradevole, ma ciò che lo rende assolutamente il top è la eccezionale prestazione attoriale di Sean Penn. Sean Penn che diventa veramente, interpreta in maniera magistrale un cantante jazz, cantante, musicista jazz, ossessionato dalla vita di, dalla rivalità presunta con Django Reinhardt. Ovviamente il personaggio interpretato da Sean Penn non è un personaggio reale, è un personaggio inventato. Questa, diciamo, diatriba a distanza tra il grande Django Reinhardt e Sean Penn in realtà non esiste. Lui interpreta Emmett Ray, che è un personaggio inventato per l'occasione, ma è veramente un'interpretazione squisita, gradevole, eccezionale. È un film da vedere, il migliore secondo, di sicuro degli anni 90, uno dei migliori in assoluto della filmografia di Woody, ma vi racconterò a breve di cosa parla esattamente il film, come è strutturato. Vi lascio ora con Stan Ayers e Il sonido del mar. Son un zumbido de fondo, no existe nada más, no oigo nada más. Si mantuvieran la boca cerrada por un solo momento, perderían el hilo. No existe nada más, no oigo nada más. Otro, lo intento de nuevo. Demasiadas voces, demasiados dedos. No dicen nada más, no encuentro nada más. Si mantuvieran la boca cerrada por un solo momento, perderían el hilo. No dicen nada más, no encuentro nada más. Hay aquí cerca un lugar donde el sonido del mar silencio me sirva de guía para encontrar la salida. No existe nada más, no quiero nada más. Por fin me siento, respiro tranquila, aquí me siento viva. No existe nada más, no quiero nada más. Bene, bentornati con Cinema Massimo, con Massimo Pica. Stiamo parlando di Woody Allen, stiamo parlando di Accordi e Disaccordi, Sweet and Lowdown, uno dei miei film preferiti, con un immenso Sean Penn che interpreta Emmett Ray, un chitarrista jazz degli anni 30-40, ossessionato dalla figura di Django Reinhardt. Infatti una delle cose più divertenti del film è quando lui spesso dice alle persone che lo incontrano: io sono il più grande chitarrista del mondo. Poi si interrompe e dice: a parte quel chitarrista zingaro in Francia. È una figura che lo ossessiona. È una delle scene più carine, quando lui si troverà di fronte a Django Reinhardt in seguito a un incidente stradale, sviene per l'emozione. Un'altra delle particolarità e delle bellezze di questo film è l'interpretazione, a mio modesto parere, sempre di Samantha Morton, un'attrice che poi non abbiamo più rivisto a questi livelli, che interpreta Hetty e interpreta la fidanzata muta di Emmett, una ragazza che lui incontra per strada. È una ragazza che con cui ha una relazione stranissima, perché lei non parla, praticamente mangia solo in tutto il film, è sempre lì che mangia, lui se la porta in giro, le parla in continuazione. Ci sono queste divertenti scene in cui lui parla a raffica e lei praticamente mangia e ascolta e basta. Invece una delle guest star imponente in questo film è la presenza di Uma Thurman, che interpreta poi la ragazza con cui Emmett Ray si sposa e che tradirà spesso il povero Emmett. Uma Thurman, bellissima, è una presenza che illumina il film, ma l'interpretazione di Samantha Morton è eccezionale. Woody Allen in questo film compare solo in poche scene, in delle, diciamo, finte interviste, perché il film è costruito quasi come fosse un cinegiornale, una specie di documentario che racconta la vita di questo chitarrista leggendario, che poi a un certo punto scompare perché non è assolutamente in grado di gestire i soldi, una vita sregolata, e si racconta della sua vita. È quasi come se tutto quello che è accaduto, tutto quello che lui ha fatto fossero leggende, fatti incredibili, ma non si sa dove inizia la realtà e dove finisce la finzione. È una figura leggendaria, non si sa bene se è esistito o non è esistito. Ovviamente il personaggio è completamente inventato, se l'ha inventato Woody Allen per creare questo film. E un'altra delle cose carine del film è, secondo me, la gara di dilettanti a cui lui come chitarrista partecipa. In pratica lui, squattrinato, va in giro per l'America senza soldi. A un certo punto vede un annuncio di una gara di una specie di corrida, no? Artisti dilettanti che devono esibirsi, e lui si presenta. È come se, non so, arrivasse uno dei più grandi chitarristi del mondo a partecipare alla corrida, e deve vedersela con gente che suona il piffero, gente che batte i tamburi, e lui inizia a suonare, prima normale, poi a un certo punto esagera e comincia a fare dei virtuosismi pazzeschi, e praticamente lo beccano. È già tanto che non lo riempiono di botte, però è una cosa molto, una situazione molto divertente, come quella in cui lui, quando rimorchia le ragazze, dove le porta? Beh, voi dove la portereste? Lui le porta in una ferrovia, due binari morti, a sparare ai ratti, cosa che lui trova assolutamente divertente. Questo è accordi e disaccordi. Questo era del 1999, Sweet and Lowdown. Entriamo a breve, entreremo negli anni 2000 con Criminali da Stapazzo, ma ora una piccola pausa, vi lascio con il prossimo pezzo, che sono i The House of the Old Bot, Teach Me How to Smile. Said to me, you can count the people who care about you on the fingers on one of your hands. They'll come to your shipwreck after the storm and place a blanket around your shoulders just because they want to keep you warm. You can teach me how to smile. You can teach me how to smile again, my dear. You know it's true. Ok, bentornati, Cinema Massimo, ottava puntata della prima stagione, chiamiamola così, se permettete di dirmelo, di Cinema Massimo. Stiamo parlando di Woody Allen, siamo arrivati ormai agli anni 2000, abbiamo appena finito di parlare di Sweet and Lowdown, accordi e disaccordi, e entriamo negli anni 2000 con il film Criminali da Strapazzo, un film nella media normale, né eccezionale né brutto, né senza infamia senza lode. È una storiella di dei criminali che tentano un colpo in una banca affittando un negozio. Ovviamente serve una copertura. La copertura qual è? Fare biscotti. La moglie di Woody Allen comincia a fare biscotti e i biscotti hanno un tale successo commerciale che diventano miliardari. Questa è l'idea buffa o simpatica del film, tant'è che loro lasceranno assolutamente perdere la rapina e si dedicheranno e diventeranno una multinazionale dei biscotti con un successo a livello mondiale. Però è un'idea così come tante altre, no? Il film non è né eccezionale né brutto, si può vedere, ma senza, non strappatevi i capelli se non l'avete mai visto, assolutamente. La guest star del film è Hugh Grant, conosciamo tutti, all'apice della sua fama in quegli anni lì. Diciamo che il film chiude una parentesi legata ai criminali, che riprende un po' i primi film, ve lo ricordate, no? Prendi i soldi e scappa e altre situazioni particolari, con un ben altro esito. Chiudiamo quindi questa puntata di Cinema Massimo ricordando, come è giusto, chi è con me in regia, Marco Bruno, lo salutiamo e grazie a lui se riusciamo a collegarci e a farvi ascoltare le nostre opinioni. Questa è Radio Abawalla, la web radio di Ivrea. Siamo in via Arduino, negli uffici, nelle stanze dell'Albero della Speranza. Tutte le canzoni che avete ascoltato sono in Creative Commons, libere da ascoltare, da scaricare, potete farne quello che vi pare. E vi ricordo che tutti i programmi, il programma Strip Trip sui fumetti, Torino la mia città, Chi c'è c'è, che è un programma che va in diretta il sabato pomeriggio, potete venire, passare, guardare, dire la vostra, hanno la loro pagina sul blog di Radio Abawalla. Io personalmente, dato che voglio fare le cose in grande, mi sono addirittura aperto la pagina Facebook, pensate un po', addirittura 22 persone hanno già cliccato mi piace, non vorrei esagerare, quindi andate piano che non vorrei sfondare i server di Facebook. Allora, dicevo, a questo punto anche Strip Trip ha la pagina Facebook, quindi se siete appassionati di fumetti, ma giusto, fate un mi piace, cosa vi costa, giusto perché almeno così ci sentiamo un po' più belli. Vi saluto, vi lascio alle ultime note di questa di oggi. Riprenderemo la prossima puntata parlando di un altro film, un film carino, La maledizione dello scorpione di Giada del 2001. Woody Allen e Massimo Pica vi salutano con Cinema Massimo, alla prossima puntata. Arrivederci.